Componimento 34esimo dei Canti di Giacomo Leopardi. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. La ginestra o il fiore del deserto. Cai egapesan hoi anthropoi malon to scotos e to pos. E gli uomini vollero piuttosto le tenebre che la luce. Giovanni III, 19. Qui, sull'arida schiena del formidabil monte sterminator Vesevo, la qual null'altro allegra arbor né fiore, tuoi cespi solitari intorno spargi, odorata ginestra, contenta dei deserti. Anco ti vidi de tuoi steli abbellir l'erme contrade che cingon la cittade, la qual fu donna de mortali un tempo, e del perduto impero par che col grave taciturno aspetto faccian fede e ricordo al passeggero. Or ti riveggo in questo suol di tristi lochi e dal mondo abbandonati amante e d'afflitte fortune ognor compagna. Questi campi cosparsi di ceneri infeconde e ricoperti dell'impietrata lava che sotto i passi al peregrin risona, dove s'annida e si contorce al sole la serpe e dove al noto cavernoso covil torna il coniglio, fur liete ville e colti e biondeggiar di spiche e risonaro di muggito d'armenti, fur giardini e palagi agli ozi dei potenti gradito ospizio e fur città famose che coi torrenti suoi l'altero monte dall'ignea bocca fulminando oppresse con gli abitanti insieme. Or tutto intorno una ruina involve ove tu siedi, o fior gentile, e quasi i danni altrui commiserando al cielo di dolcissimo odor mandi un profumo che il deserto consola. A queste piagge venga colui che d'esaltar con lode il nostro stato ha in uso e vegga quanto è il gener nostro in cura all'amante natura e la possanza qui con giusta misura anco estimar potrà dell'uman seme cui la dura nutrice ovvei menteme con lieve moto in un momento annulla in parte e può con moti poco men lievi ancor subitamente annichilare in tutto. Dipinte in queste rive son dell'umana gente le magnifiche sorti e progressive. Qui mira e qui ti specchia, secol superbo e sciocco, che il calle insino allora dal risorto pensier segnato innanti abbandonasti e volti addietro i passi del ritornarti vanti e procedere il chiami al tuo pargoleggiar gli ingegni tutti di cui lor sorte rea padre ti fece vanno adulando ancora calludibrio talora t'abbian fra sé. Non io con tal vergogna scenderò sotterra, ma il disprezzo piuttosto che si serra di te nel petto mio mostrato avrò quanto si possa aperto, bench'io sappia che oblio preme chi troppo all'età propria increbbe. Di questo mal che teco mi fia comune assai finor mi rido. Libertà vai sognando e servo a un tempo vuoi di nuovo il pensiero, sol per cui risorgemmo della barbarie in parte e per cui solo si cresce in civiltà che sola in meglio guida i pubblici fati. Così ti spiacque il vero dell'aspra sorte e del depresso loco che natura ci die. Per queste il tergo vigliaccamente rivolgesti al lume che il fe palese e fuggitivo appelli vil chi lui segue e solo magnanimo colui che se schernendo o gli altri, astuto o folle, fin sopra gli astri il mortal grado estolle. Uom di povero stato e membra inferme, che sia dell'alma generoso ed alto, non chiama a sé né stima ricco d'or né gagliardo, e di splendida vita o di valente persona infra la gente non fa risibil mostra. Ma se di forza e di tesor mendico, lascia parer senza vergogna, e noma parlando apertamente e di sue cose fa stima al vero uguale. Magnanimo animale non credo io già, ma stolto, quel che nato a perir, nutrito in pene, dice a goder son fatto, e di fetido orgoglio empie le carte, eccelsi fati e nove felicità quali il ciel tutto ignora. Non pur quest'orbe, promettendo in terra a popoli che un'onda di mar commosso, un fiato d'aura maligna, un sotterraneo crollo, distrugge sì cavanza a gran pena di lor la rimembranza. Nobil natura è quella ch'a sollevar s'ardisce gli occhi mortali incontra al comun fato e che con franca lingua nulla al ver detraendo confessa il mal che ci fu dato in sorte e il basso stato è frale. Quella che grande e forte mostra sé nel soffrir, negli odi e l'ire fraterne ancor più gravi d'ogni altro danno accresce alle miserie sue, l'uomo incolpando del suo dolor, ma dà la colpa a quella che veramente è rea, che de mortali madre è di parto e di voler matrigna. Costei chiama inimica e incontro a questa, congiunta esser pensando, siccome è il vero ed ordinata in pria l'umana compagnia, tutti fra sé confederati estima gli uomini e tutti abbraccia con vero amor, porgendo valida e pronta ed aspettando aita negli alterni perigli e nelle angosce della guerra comune ed alle offese dell'uomo armar la destra e laccio porre al vicino ed inciampo stolto crede così qual fora in campo cinto d'oste contraria in sul più vivo incalzar degli assalti gli inimici obliando acerbe gare imprender con gli amici e sparger fuga e fulminar col brando infra i propri guerrieri. Così fatti pensieri, quando fien, come fur, palesi al volgo, e quell'orror che primo contra l'empia natura strinse i mortali in social catena, fia ricondotto in parte da verace saper. L'onesto e il retto conversar cittadino e giustizia e pietade altra radice avranno allor che non superbe fole, ove fondata probità del volgo così star suole in piede, quale star può quel ch'ha in error la sede. Sovente in queste rive che, desolate, a bruno veste il flutto indurato e par che ondeggi, seggo la notte. E sulla mesta landa in purissimo azzurro veggo dall'alto fiammeggiar le stelle cui di lontan fa specchio il mare e tutto di scintille in giro per lo voto seren brillare il mondo e poi che gli occhi a quelle luci appunto che allor sembrano un punto e sono immense in guisa che un punto a petto a lor son terra e mare veracemente a cui l'uomo non pur, ma questo globo, ove l'uomo è nulla, sconosciuto è del tutto. E quando miro quegli ancor più, senza alcun fin remoti, nodi quasi di stelle, ch'a noi paion qual nebbia, a cui non l'uomo e non la terra sol, ma tutte in uno del numero infinite e della mole con l'aureo sole insiem, le nostre stelle o sono ignote o così paion come essi alla terra un punto di luce nebulosa. Al pensier mio che sembri allora, o prole dell'uomo? E rimembrando il tuo stato quaggiù, di cui fa segno il suol ch'io premo, e poi dall'altra parte, che te signora e fine credi tu data al tutto, e quante volte favoleggiar ti piacque in questo scuro granel di sabbia, il qual di terra ha nome per tua cagion dell'universe cose, scender gli autori e conversar sovente co tuoi piacevolmente, e che i derisi sogni rinnovellando ai saggi insulta fin la presente età, che in conoscenza ed in civil costume sembra tutti avanzar. Qual moto allora mortal prole infelice o qual pensiero verso te finalmente il cor m'assale? Non so se il riso o la pietà prevale. Come d'arbor cadendo un picciol pomo, cui là nel tardo autunno maturità senz'altra forza atterra, d'un popol di formiche i dolci alberghi cavati in molle gleba con gran lavoro e l'opre e le ricchezze cadunate a prova col lungo affaticar l'assidua gente avea provvidamente al tempo estivo schiaccia, diserta e copre in un punto. Così d'alto piombando, dall'utero tonante scagliata al ciel profondo di ceneri e di pomici e di sassi, notte e ruina infusa di bollenti ruscelli, o pel montano fianco, furiosa tra l'erba di liquefatti massi e di metalli e di infocata arena, scendendo immensa piena, le cittadi che il mar là sull'estremo lido aspergea, confuse e infranse e ricoperse in pochi istanti, onde su quelle or pasce la capra, e città nove sorgon dall'altra banda, a cui sgabello son le sepolte, e le prostrate mura l'arduo monte al suo piè quasi calpesta. Non ha natura al seme dell'uom più stima o cura ch'alla formica, e se più rara in quello che nell'altra è la strage, non avvien ciò d'altronde fuor che l'uom sue prosapie a men feconde. Ben 1800 anni varcar poi che spariro oppressi dall'ignea forza i popolati seggi e il villanello intento ai vigneti che a stento in questi campi nutre la morta zolla e incenerita ancor leva lo sguardo sospettoso alla vetta fatal che nulla mai fatta più mite ancor siede tremenda, ancor minaccia a lui strage e dai figli e dagli averi lor poverelli. E spesso il meschino in sul tetto dell'ostel villereccio, alla vagante aura giacendo tutta notte insonne, e balzando più volte, esplora il corso del temuto bollor che si riversa dall'inesausto grembo sull'arenoso dorso, a cui riluce di Capri la marina e di Napoli il porto e Mergellina. E se appressar lo vede, o se nel cupo del domestico pozzo ode mai l'acqua, fervendo gorgogliar, desta i figliuoli, desta la moglie in fretta, e via con quanto di lor cose rapir posson, fuggendo, vede lontan l'usato suo nido e il picciol campo, che gli fu dalla fame unico schermo, preda al flutto rovente, che crepitando giunge e inesorato durabilmente sovra quei si spiega. Torna al celeste raggio dopo l'antica oblivion l'estinta Pompei come sepolto scheletro cui di terra avarizia o pietà rende all'aperto, e dal deserto foro diritto in fra le file de mozzi colonnati il peregrino lunge contempla il bipartito giogo e la cresta fumante ch'alla sparsa ruina ancor minaccia. E nell'orror della secreta notte, per li vacui teatri, per li templi deformi e per le rotte case ove i parti il pipistrello asconde, come sinistra face che per vuoti palagi atra s'aggiri, corre il baglior della funerea lava che di lontan per l'ombre rosseggia e i lochi intorno tinge. Così dell'uomo ignara e dell'etadi che chiama antiche e del seguir che fanno dopo gli avi nepoti sta natura ognor verde, anzi procede per sì lungo cammino che sembra star. Caggiono i regni intanto, passan genti e linguaggi, ella nol vede e l'uom d'eternità s'arroga il vanto. E tu, lenta ginestra, che di selve odorate queste campagne dispogliate adorni, anche tu presto alla crudel possanza soccomberai del sotterraneo fuoco che, ritornando al loco già noto, stenderà l'avaro lembo su tue molli foreste e piegherai sotto il fascio mortal non renitente il tuo capo innocente. Ma non piegato insino allora indarno, codardamente supplicando innanzi al futuro oppressor, ma non eretto con forsennato orgoglio inver le stelle, né sul deserto, dove ella sede i natali non per voler, ma per fortuna avesti. Ma più saggia, ma tanto meno inferma dell'uom, quanto le frali tue stirpi non credesti o dal fato o da te fatte immortali. Fine del componimento 34°.